soddisfatto della prova di oggi? Queste partite, insomma, uno chiede poco, almeno la concentrazione di un buon ragazzo hanno tenuto. Non sono andate male per, diciamo, tre quarti della partita. A me è sembrata meglio di ieri, da questo punto di vista. In modo più ordinato, non so se è dovuto a grazie alla nostra prestazione oppure all'avversario, anche se l'avversario ha qualcosa in più del Porto Rico. Domani la Grecia, l'ha vista in questi giorni? Invece l'ho vista, ma la vedo ora, con la Germania. Invece è una buona squadra che riesce a mettere in difficoltà tutto, che è una squadra con un allenatore molto furbo, che riesce a farti giocare male, cioè si appoggia molto sulle deficienze della squadra. È una squadra che ti fa giocare male, che ti ammorba col suo ritmo, ti mette con le braccia a zona, fa molta densità davanti al centrale, quindi dobbiamo avere molta pazienza. Se avremo molta pazienza, sono convinto che la portiamo a casa, tranne cose dall'altro mondo. Se noi invece perdiamo la misura perché non troviamo lo sbocco facilmente, allora la partita si complica. Oggi la Russia contro Porto Rico ha migliorato la sua differenza reti. Ma la differenza reti qua non si capisce su che cosa vale. Questo l'ha fatto perché se c'è una possibilità remota di pareggio, sì, ha detto, vabbè, dando la migliore e basta. Questi discorsi delle ragazze non l'abbiamo fatte perché l'abbiamo fatto già a Melbourne, cioè per un gol, si è portato alla finale del terzo e quarto posto per un gol. Però sono stressanti, si pensa solo a quello, pensiamo a giocare, a vincere, non può essere sempre per un gol anche per un gol. Auguri, complimenti, ci vediamo domani. Grazie.